11:07 col consueti qualche minuto di ritardo, inizia una nuova puntata di Parole Ribelli sulle libere frequenze di Radio Blackout. Un buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici da Francesca. E un buongiorno assonnato e convinto che la vita sia troppo breve per lavorare da Eddie. Ricordiamo i contatti 346-66-73-263 per scriverci e 011-2495-669 per il fisso. E come sempre saremo qui a tenervi compagnia fino alle 12:45 circa, quindi per chi non l'avesse ancora fatto, sintonizzatevi sui 105.250, ascoltateci in streaming da radioblackout.org, oltre che su Radio Info Out. Vi lasciamo alla nostra fantastica sigla, la lasciamo finire, poi ancora un po' di musica prima di andare a presentarvi la puntata di quest'oggi. L'attento ascoltatore o ascoltatrice che ci ha segnalato dei problemi con l'audio, probabilmente era il cavo che era un po' messo male, adesso dovrebbe essere tutto a posto, dovrebbe uscire in stereo e non più in mono. ancora i topi, escono dai buchi, io rifletto, ma perché non ho sonno, io rifletto, ora sono in controllo, io rifletto, non già dire tre, io rifletto, chiuso dentro il freezer, io rifletto, penso nel mio super, io rifletto, ora aspettando il conto, sento intorno, riflesso, scudi me, le lacrime, i sorrisi, sogni, e 17 sulle libere frequenze di Radio Blackout 105.250, da 31 gradi ci segnala il termometro in studio e andiamo avanti così aspettando di riuscire a rinfrescarci in qualche modo e andiamo a presentare questa nuova puntata di Parole Ribelli che ogni martedì vi accompagna. Inizieremo come sempre con un po' di rassegna stampa, soprattutto dal contesto locale e non solo, provando poi a iniziare anche a fare due parole in vista dell'11, quindi commentando un po' i dati che quotidianamente ci vengono così propinati, soprattutto su Repubblica, provando appunto un po' a parlare poi della realtà torinese, non solo in vista del vertice europeo sulla disoccupazione giovanile del prossimo 11 luglio. Poi ci faremo dare qualche aggiornamento con una diretta con gli occupanti della Cavallerizza che ieri sono andati in presidio sotto il comune con il loro gigante coniglio pirata e sono stati ricevuti da Fassino, occupanti e coniglio compreso. Quindi ci racconteranno un po' come è andato questo incontro, ci racconteranno un po' le ragioni del presidio e ci diranno come sta andando avanti questa occupazione. E sempre in vista dell'11 luglio inaugureremo la rubrica Stay Social verso l'11 andando a leggere così commenti più divertenti e non solo che si sono insomma susseguiti sui social in questi giorni, quindi tra Twitter e Facebook. E in ultimo andremo a sentire i compagni del collettivo universitario di Bologna che hanno lanciato una campagna contro la Staveco, che è la ditta che dovrebbe rilevare gli edifici storici di via Zamboni per poi costruire un campus. Allora sappiamo perfettamente che la relazione tra esigenze universitarie e costruzione del campus non sempre è conseguenziale e quindi andremo un po' a chiedere ai compagni che cosa c'è dietro questa mossa, se è effettivamente un qualcosa che, al contrario di Torino, va incontro alle esigenze degli studenti, o se è l'ennesimo pezzo di speculazione fatto sulla testa degli universitari. E questo è più o meno quanto. Ovviamente in chiusura andremo poi, come sempre, a ricordare un po' di appuntamenti per quanto riguarda la zona universitaria e non solo, quindi quello che succederà nei prossimi giorni. Adesso vi lasciamo ancora un pezzo musicale, poi iniziamo a entrare un po' nel vivo della puntata. Domandano al 346-66-73-263 di chi sia questo pezzo. Questo pezzo è di Mia, M puntato, I puntato, A puntato. Il titolo, per facilitarvi la ricerca, è Paper Planes. Allora, 11:23, iniziamo un po' a parlare di quello che succede in città, di quello che ci viene raccontato e di quello che invece viviamo noi. In questi giorni abbiamo visto comparire per le strade di Torino non solo i manifesti in vista dell'11 luglio, ma anche dei manifesti fatti dall'Università di Torino, che evidentemente provano a fare così un po' di campagna acquisti, se così vogliamo definirla, in vista del prossimo anno accademico. Il primo, insomma, titola a grandi lettere: il futuro della ricerca nelle tue mani, dona il 5 per 1000 all'Università di Torino. E beh, insomma, già lo slogan è abbastanza emblematico, perché dover dire che il futuro della ricerca è nelle nostre mani è già abbastanza, appunto, esemplificativo. Cioè, questi tagliano selvaggiamente su tutti i fondi per la ricerca da anni, e praticamente poi tu non solo devi lavorare gratis per loro, ma ti devi anche autofinanziare la tua ricerca, se vuoi vuoi pensare di continuare un po' a studiare, insomma a fare quello che ti interessa, per cui hai studiato per anni. Ma infatti credo sia evidente che il futuro della ricerca, secondo l'Università di Torino, sta in quel piccolo salvadanaio azzurro che abbiamo visto stringere nelle mani dei poveri malcapitati che hanno fatto fundraising in questo, da che è nata fino ad oggi, per la famosa Fondazione Ricerca e Talenti. Ricordiamo che l'abbiamo fatto più volte come ipotesi, quella di comunque individuare in Torino un territorio su cui ci sono delle sperimentazioni in atto rispetto a il governo del territorio stesso, e nello specifico appunto su uno dei suoi pezzi più importanti e la cui centralità è stata tutta decisa, ovvero l'università. Quindi il fatto che sia nata questa Fondazione Ricerca e Talenti, che il futuro della ricerca sia scritto a chiaro lettere nelle nostre mani e non di chi dovrebbe garantire da regolamento scritto di proprio pugno, tra parentesi, perché la ricerca, l'accessibilità all'università, la circolazione dei saperi, bene, se ne lava le mani, perché il futuro della ricerca è nelle nostre. E l'altro manifesto, sempre appunto a firma dell'Università di Torino, titola invece a grandi lettere: viene a studiare a Torino, città universitaria. Quindi appunto invita senza mezzi termini le nuove matricole a raggiungere la nostra città per il prossimo anno accademico. Ma diciamo che da un lato sicuramente Torino, rispetto ad altre città, in questi ultimi anni ha avuto un trend abbastanza in controtendenza per quanto riguarda le iscrizioni, perché se in molte altre città sono calate drasticamente, Torino insomma ha tenuto abbastanza i suoi numeri da questo punto di vista. Sicuramente però insomma presentarla come città universitaria stride un po' con quella che è appunto la realtà che poi si vive tutti i giorni. Ricordiamo che sulle borse di studio sono rimaste ormai un miraggio per quelli che loro definiscono i pochi meritevoli, quindi questa sorta di setta di eletti che mantenendo faticosamente medie assurde per tutto l'anno riesce magari a farsi appunto a ricevere una borsa di studio, a non dover pagare le tasse, ma per il resto appunto insomma negli anni scorsi tutte le battaglie per le borse di studio, per il diritto allo studio, si parlava di tagli davvero stratosferici, con 8.000 studenti rimasti a piedi. Ma non solo, appunto affitti che salgono grazie ai vari cambiamenti che stanno avvenendo nei quartieri, le tasse universitarie che sono aumentate in modo astronomico nel giro di pochi anni e così via. Sì, infatti era proprio, come diceva giustamente Francesca, ricordando le lotte per il diritto allo studio, era proprio in quella sede là che si era tracciato anche un po' questo parallelo che la mia collega qui aveva appena sottolineato, ovvero il fatto che non ci fosse un crollo delle iscrizioni a Torino, comunque continuava a essere legato al fatto che l'accessibilità della vita, i costi della vita generali erano comunque ancora sostenibili in un periodo fino a poco tempo fa, nel momento in cui i servizi vengono tagliati e diciamo le spese dirette aumentano in maniera vertiginosa, ecco, quale sia il futuro, è difficile pensare che sia quello della città universitaria, a meno che universitaria non voglia dire solo di alcuni universitari, e allora quella massima capienza di 198 posti nelle aule del campus, quando ci sono corsi che hanno magari 300 frequentanti, ecco che trovano tutto un senso invece di e smettono di sembrare una semplice disattenzione. E insomma, questo era per iniziare a commentare un po'. Sicuramente anche il fatto che siano comparsi questi manifesti probabilmente ci dice anche che appunto questo trend positivo rispetto al resto d'Italia probabilmente è stato un po' intaccato da tutta una serie di provvedimenti, e che quindi anche l'università cerca di correre ai ripari, anche perché col sistema attuale di suddivisione dei pochi fondi rimasti per l'istruzione ovviamente è nata questa appunto competizione tra i vari atenei per accaparrarsi un po' più di studenti, e quindi di conseguenza più fondi per dimostrare insomma che i risultati ottenuti all'interno del proprio ateneo sono migliori di altri, quindi in relazione al numero di anni che vengono impiegati per laurearsi e così via. Per quanto ci riguarda, abbiamo iniziato anche noi la nostra campagna in vista dell'11, quindi se vedete adesivi e manifesti in giro, insomma, anche noi ci stiamo attrezzando in vista del vertice. Adesso vi lasciamo ancora un pezzo musicale, poi facciamo ancora due parole su un paio di articoli usciti in questi giorni, poi iniziamo invece con le dirette. Took some time to get my cheese correct until I'm prophecy. Hopped up out the loop and had to work some fucking awful shit so I could eat my pizza with the toppings and the condiments. See, I deserve my slice of all the elements. I'm stepping back from all the mess when the game became ominous. While y'all embraced the grimy darkness, I was chasing opulence. Trying to get my wallet fit while I know thoughts from opera shit. It's common sense, kids, let me summarize. Wait, work, make moves, never mind the other guys. Stack chips, side grip, copper whip, something fly. Hustling for yourself, the shit, don't try to tell me otherwise. To see the downside of the fears, though. When you take a steady look from outside of the fears, though. People that you thought were real, like you're my fucking peers, though. It's just people on the block that's here, though, like a clear show. So I ain't another drop in a fucking in the book. I want another food scrap on the road. You ain't gonna get rid of me that easy. You can watch them all scatter like bugs. There they go. There they go. Man. See, while the scene was getting flooded like a fucking Bible stream, I was on my 9 to 5, steady busy grinding mean, learning ways to earn a wage, pursuing pay and finding grain, and once I earn my stacks, I'll relax and take some time. So if you think I'm sitting around traveling, that's fine to me, cause I'm no vegetable, I just take time to be my lima bean, moving at a steady pace, ace I have the right to be, cause when you in slow motion, even 50 feel like so I'ma push the gas and kinda slow, won't see me crashing, steady smashing down the average like a pro, completely macking, acting like they have it lavish, they don't know. That's why I'm laughing through the average ass, so acting like a hoe, there they go, always flashing all their headlights, thinking that they just might, rush and get their bread right, floating around like rocking clowns, acting all big head type, but most of them never touch the fucking cumulus, lead kite, so I ain't another drop in the bucket, I'm another food scrap on the road. You ain't gonna get rid of me that easy. See, you want them all scattered like bugs. There they go. There they go. There they go. There they go. There they go. There they go. There they go. There they go. There they go. There they go. There they go. Let's get this thing out quietly. So I ain't another drop in the bucket. I'm another food scrap on the run. You ain't gonna get rid of me that easy. See, you want them all scattered like bugs. There they go. There they go. There they go. Sure. di schiodarmi, penso solo a quello che ho da fare. Gesù, Gesù, sono io la vittima dei demoni che tornano e che vengono a tirarmi giù. I miei cattivi pensieri che mi aspettano, braccano, parlano e parlano. Dove sono i raggi che scaldavano un guaglione? Dove sono gli altri della mia ballotta, mo che sono nel ciclone? Indopa trovo la mia cura, indopa mischio le radici e la cultura e energia pura. La musica mi detta le parole, caccio queste rime, so che prima o poi ritorna il sole. Oggi non c'è sole intorno a me, falla mia, risveglio, scaldami, io se voglio sole. Vada a sé, conto solo su di me, già so che già sai che riuscivo a fare quel che sarò a fare quando amore non c'è. Devi impostare perché in tasca manca amore, sempre più difficile restare calmo in questa situazione. Sclero, non ne voglio più, parto da zero, so che in qualche modo devo andare su, ma non c'è più luce, solo buio che fa male. Non c'è più pace, solo rabbia che ogni giorno sale. So bene dove sono adesso, voglio stare qui, sentirvi. Se sei l'ascolto vieni a prendermi, rapiscimi, musica colpisce al cuore. Bulls up, però non c'è dolore. Ti stendi le tue mani, quali crisi su un guaglione, mentre sto aspettando il sole. E io oggi non c'è sole intorno a me, salvami, io spendo, scaldami, io se voglio sole. E andiamo avanti con il commentare un po' di notizie, un po' di dati più che notizie, perché ormai la Repubblica va avanti a ricerche Istat sostanzialmente invece che a giornalismo. E qui avremo bisogno di tutta la vostra collaborazione perché sarà molto difficile, si parla di lavoro. Allora ricordiamo i contatti 346-66-73-263, mi raccomando, adesso andremo avanti e scoprirete perché, ma cominciate a pensare quali sono le vostre esperienze con i peggiori datori di lavoro di sempre o anche i peggiori acquirenti, i peggiori clienti, qualunque sia il lavoro che fate. Insomma, qui abbiamo bisogno di spezzare questa sequela di percentuali sterili con un po' di vita vera, con un po' di realtà. Quindi 346-66-73-263, sotto a chi tocca, ognuno ha avuto un'esperienza di lavoro pessima sicuramente. Allora dicevamo, lavoro, quasi 7 milioni a casa, ma vorrebbero lavorare. Innanzitutto vorrei parlare con questi 7 milioni che vorrebbero lavorare, però vabbè. 9 mesi fa erano 1 milione meno, secondo 1 milione in meno. Secondo i dati Istat, sul primo trimestre del 2014 ai 3,487 milioni di disoccupati si possono sommare 3,381 milioni di inattivi. A pesare è lo scoraggiamento. Innanzitutto questa categoria degli inattivi è magnifica perché appunto la disoccupazione non è più inattività, perché si può essere disoccupati ma comunque produttivi, comunque attivi, operosi, ci si può sbattere da una parte all'altra della città, consegnare curriculum, andare dall'amico magari grafico disoccupato, pure lui che c'è una partita IVA con cui non cava niente, io senti ma mi metti un po' a posto il curriculum così è più carino, e allora andare a stampare lì, aggiustare in mille modi. E quindi disoccupato di certo non vuol dire inattivo, alcuni invece sono anche inattivi. Comunque, sono quasi 7 milioni le persone che vorrebbero lavorare ma non trovano. Fondamentalmente, secondo i dati Istat, sul primo, vabbè, a parte i dati già nel sottotitolo, 9 mesi fa erano solo 6 milioni coloro che volevano lavorare, tutte persone quindi che si ritrovano a casa a spasso, nota di colore gergale della Repubblica, come farsela mancare, anche se preferirebbero lavorare. Si tratta di un esercito sempre più esteso, ecco qua uno scorcio di prospettiva di organizzazione dal basso secondo la Repubblica, con esercito cresciuto solo nell'ultimo anno, alimentato sia dai disoccupati, coloro che effettivamente sono a caccia di un impiego, sia da quegli inattivi che si sono chiamati fuori dal mercato del lavoro pur mantenendo intatto il desiderio di un impiego. Quindi sono gli inattivi, sono i sognatori da lontano, non si capisce bene chi siano questi inattivi. Un fenomeno su cui pesa lo scoraggiamento. Il vero boom si è registrato alla fine del secondo trimestre del 2013, quando ai 3,07 milioni di disoccupati si sommavano 2,99 milioni di persone che non cercavano ma erano disponibili a lavorare, oppure cercavano un'occupazione ma non erano subito disponibili, per un totale di 6,6 milioni di persone, circa 800.000 in meno rispetto alla fine del primo trimestre. Allora, qua l'articolo finisce, come avevamo detto in apertura, è completamente inutile, però è molto interessante questa, oltre alla categoria degli inattivi, che sarebbero quelli che sul divano sognano di lavorare, non si capisce bene chi siano questi inattivi, ma la roba, la nota stupenda che credo possa aprire nella memoria di ognuno di noi infiniti file, almeno nella mia lo fa, è quella dei coloro che cercavano un'occupazione ma non erano disponibili, ma non erano subito disponibili. Allora, non so se vi è mai capitato di ritrovarvi a dire: ah, ma certo che cerchiamo personale, puoi venire, ci serve un po' qualcuno in cucina, ah ma dai che bello, guarda io sto proprio cercando, grazie, allora guarda se sei disponibile attacchi domani, devi portare solo tutte le pentole della cucina. Allora, diciamo, essendo adesso questo per dire che di solito i tempi di attivazione piuttosto che ciò che viene richiesto al lavoratore per entrare a lavorare sono di fatto condizioni poi completamente sfavorevoli, si viene assunti per mansioni per cui magari si potrebbe chiamare una ditta, non si chiama la ditta, si chiama il singolo perché costa meno, senza pensare di ammortizzare in qualche modo il fatto che è un equipaggiamento di lavoro piuttosto che tutta un'altra serie di cose. Insomma, esperienze orrorifiche al lavoro ce n'è, quindi questi 7 milioni che non lavorano, state tranquilli che tanto reddito non si fa uguale lavorando. E invece, provando ad allargare un po' lo sguardo al contesto europeo, ricordiamo che l'Italia si prepara ad entrare appunto nel semestre europeo a guida italiana, e sempre su Repubblica nei giorni scorsi è uscito un articolo che insomma dava qualche informazione sull'aria che si respira appunto a livello europeo, e fa sapere che da Berlino il ministro non ha nessuna intenzione di allentare la presa sulle strettissime regole di bilancio del Fiscal Compact. E per quanto riguarda l'Italia, le indicazioni che vengono date appunto dall'Europa sono o di approvare tutte le riforme del lavoro e l'apertura dei mercati e dei servizi, oppure i tagli di spesa di cui ha parlato la Commissione Europea. Quindi ancora una volta riforme del lavoro che abbiamo già visto in che direzione vanno, quindi con il Job Act, su cui già abbiamo speso molte parole in questa trasmissione, o nuovi tagli. L'alternativa che viene poi, insomma, bontà loro data dall'Unione Europea, quindi o tagli o riforme, oppure il suggerimento che viene dato all'Italia è di investire su nuove grandi opere. Quindi ancora una volta l'indicazione che viene data è: continuiamo a fare grandi opere inutili che servono solo a ingrossare le tasche dei soliti noti. Insomma, in questi giorni non c'è bisogno di commentare ulteriormente tutto insomma il marcio che sta venendo a galla tra Expo, Mose e non solo. Siamo sicuri che altrettanto succederebbe con il TAV se solo qualcuno si degnasse di andare a scavare un po' più a fondo. E quindi appunto queste sono le indicazioni che vengono date dall'Unione Europea all'Italia per stare appunto dentro le regole di bilancio. E quindi niente, anche per questo ribadiamo ancora una volta: ci vediamo l'11. Meravigliosa, a proposito sempre diciamo di Job Act, vari ed eventuali, la dichiarazione di Poletti alla Repubblica delle Idee: nostre leggi sul lavoro sono di sinistrissima. Allora Poletti, anche per queste cose, anche per queste storture orribili verso la nostra bella lingua, ci vediamo l'11. E niente, noi su questo chiudiamo un po' questa prima parte un po' seria, un po' di cazzeggio verso l'11 luglio. Vi lasciamo un breve stacco musicale, poi facciamo la prima diretta di aggiornamento su quello che si sta muovendo in cavallerizza. Right. Ancora un attimo di pazienza, il nostro contatto alla cavallerizza è momentaneamente irraggiungibile, ma a brevissimo ci metteremo in contatto con lui. E allora 11.57 sui 105.250, le libere frequenze di Radio Blackout. Siamo riusciti a entrare in collegamento con Andrea. Andrea, ci senti? Sì, mi sento, ciao Eddie. Allora, sappiamo che ieri c'è stato un presidio sotto al comune. Vediamo sulla vostra pagina Facebook in copertina un bel no parcheggio, sì giardinaggio. E sappiamo anche che il primo cittadino, Piero Fassino, vi ha chiamato su ieri da Piazza Palazzo di Città in cui eravate. Quindi raccontaci un po' intanto le ragioni di questo presidio, perché proprio ieri, perché no parcheggio sì giardinaggio invece che la cavallerizza è reale, che è lo slogan che state usando da un po', e poi se ci racconti un po' com'è stato questo incontro paranormale del terzo tipo con Fassino. Ma innanzitutto ieri abbiamo pensato che, visto che veniva discussa una delibera il cui intento, il cui piano era quello di portare un po' di cemento in uno dei pezzi di verde più belli del centro di Torino, cioè i Giardini Reali, per costruire questo parcheggio abbiamo pensato di portare un po' di verde nel grigio del centro di Torino e dare una nota di colore col nostro meraviglioso coniglio realizzato da Brice davanti al comune. Evidentemente deve aver... Oltre che con dei pezzi di prato, scusa se ti interrompo. Oltre che dei pezzi di prato, esattamente. E, abbiamo fatto questo piccolo pezzettino di giardino e evidentemente qualche effetto deve averlo sortito, perché tempo forse neanche un'ora un delegato del Consiglio Comunale è venuto a chiederci se qualcuno di noi voleva salire a parlare col sindaco, che avrebbe avuto piacere di fare due chiacchiere. E lì, con questo tono colloquiale, l'incontro è stato tutt'altro che colloquiale, per quanto molto interessante, e noi abbiamo ribadito al sindaco che, come assemblea cavallerizza 1445, non abbiamo nessuna intenzione di cambiare posizioni sul rifiuto del passaggio della titolarità del bene cavallerizza e dei giardini ad un eventuale privato che possa investire. Il sindaco per la prima volta ha espresso da parte dell'amministrazione la volontà di destinare il bene ad usi culturali, per cui per la città esclusivamente culturali, ha detto, anche se poi rimane da vedere, finché non lo vediamo scritto nero su bianco, rimane la parola di un politico fondamentalmente. Sì, abbiamo visto che infatti non è uscita nessuna presa di posizione ufficiale, almeno parole ribelli non l'ha captata. Non è uscita, da quello che ho visto in giro, non è uscita nemmeno un comunicato, una velina da parte del comune, se non una conferma di questo incontro che c'è stato. E in ogni caso mi sembra un segnale positivo, un po' perché ci dà un po' di tranquillità in più in questo momento. E probabilmente anche l'amministrazione si sta rendendo conto che non siamo la solita occupazione. Dall'altro lato abbiamo avuto modo di far vedere anche che alcuni probabilmente preconcetti che l'amministrazione aveva nei nostri confronti erano errati, e di richiedere ufficialmente un incontro negli spazi della cavallerizza, che sono quelli che ci sembrano più appropriati, tra l'assemblea, che non siano i cinque rappresentanti che siano stati chiamati ieri a fare questa chiacchierata informale, ma l'assemblea tutta e l'amministrazione, o per cui Consiglio Comunale o la Giunta, dei suoi rappresentanti ufficialmente, cioè che siano lì con posizione ufficiale per parlarne. Abbiamo chiesto, ha ribadito la richiesta di moratoria del processo di gara pubblica per il bene cartolarizzato, per cui abbiamo chiesto uno stop di almeno 6 mesi a tutta la procedura, in modo che si possa parlare e la cittadinanza possa esprimersi su quello che fare della cavallerizza e delle aree collegate. E insomma è stato comunque un momento utile, un primo passo, vediamo se porterà qualcosa di più. Ma, quindi diciamo a livello politico non si è assolutamente esposto Fassino, cioè ha detto che gli usi saranno culturali senza poi dare una garanzia di nessun genere su che quale sia la sua idea di cultura, perché comunque o sbaglio, scusa. Non credo che nessuno di noi se lo aspettasse nemmeno, che il sindaco avrebbe potuto fare una cosa del genere, ma insomma non sarebbe stato credibile se l'avesse fatto in quella sede, diciamo. Sarebbe rimasta comunque un'affermazione che lasciava il tempo che trovava, per cui rassicurazioni non saprei nemmeno se chiamarle rassicurazioni. Ma credo di no, perché di fatto poi sono parole al vento, non hanno nessuna validità, diciamo, di ufficiale, quindi purtroppo sono, appunto, è come se, credo, valga più o meno come quando chiama il cane nel salotto di casa sua. Più o meno, sì, hai fatto una buona metafora, per quanto ti dico che è un primo segnale di apertura al dialogo, non può essere un segnale negativo. Vediamo se accetteranno l'invito come rappresentanza del comune, del consiglio comunale, della giunta, a venire a parlare in cavallerizza davanti all'assemblea dei cittadini. Quello sarà un primo passo per davvero. Assolutamente sì, infatti ci auguriamo che, diciamo, questa cosa abbia corso, perché purtroppo l'autogestione non può far fronte a tutti i problemi di cui adesso è permeata la cavallerizza a livello proprio strutturale e conservativo. Sicuramente il fatto che ci sia stato questo incontro magari ci dice qualcosa su anche una, diciamo, un imbarazzo delle istituzioni in questo caso. Vedo anche sul vostro blog un comunicato riguardo al, che si chiama Parliamoci Chiaro, riguardo alle visite, diciamo, in maniera informale da liberi cittadini di alcuni esponenti del Consiglio Comunale. Allora, innanzitutto, che abbiamo ribadito con forza, perché essere che i costieri a cavallerizza vengono attraversati da chiunque, questo è solo un bene, perché chiunque ha il diritto di passarci, ed è di tutti noi, questo lo sosteniamo dal primo momento. Ma se non è tanto un rappresentante politico quanto un esponente di governo, per cui un ufficiale pubblico nell'esercizio della sua funzione durante un mandato continua ad essere a svolgere quella funzione fino alla fine del mandato, non è che quando timbra il cartellino e va a casa la sera non è più rappresentante del popolo italiano, per cui che vengano e ci dicano: veniamo come privati cittadini, ci siamo tolti il mantello da assessore o da consigliere comunale, sinceramente è risibile da un lato e potrebbe far innervosire qualcuno in maniera comprensibile e giustificata, per cui abbiamo pensato bene di chiarire la nostra posizione, che non accettiamo questa dicotomia. Bene, sicuramente è importante, speriamo che il messaggio sia stato recepito, dato che, come appunto riporta sempre il vostro blog, l'avete scandito molto bene al sindaco e al vicepresidente del Consiglio Comunale, quindi mi sembra che a questo punto, se non ci saranno orecchie per sentire, la responsabilità sarà tutta da un lato, come spesso poi accade. Va bene, Andrea, ci vuoi dare un paio di appuntamenti? L'occupazione va avanti, se voi ribadite dal vostro blog che non avete nessuna intenzione di muovervi finché non avete assicurazioni di un certo tipo, quindi immagino che proseguiranno anche le attività, se hai voglia di lanciare qualche appuntamento. Guardate, ce ne sono questa settimana molto ricche, anche la prossima, vi do un paio di cose carine, gli appuntamenti carini da domani sera sicuramente, poi vediamo anche la frequenza, ci saranno delle lezioni di Pilates gratuite verso il tramonto dalle 7:30 nei cortili, ci sono tutta una serie di laboratori per i quali orari vi rimando ai dettagli sul blog, mentre oggi ci sarà un gruppo di studi di lavoro che si centra sulla gestione del patrimonio culturale da parte dell'UNESCO, e invece per momenti un pochettino più spettacolari, oltre agli spettacoli in cartellone per questa settimana, vi segnalo che domenica sera alle 9:30 ci saranno Guido Catalano e Federico Sirianni, che faranno un 2/3 di Grande Fresco, perché purtroppo Matteo Negrin non potrà essere dei nostri questo fine settimana, e ci sarà un bellissimo concerto di Bossa Nova venerdì sera, per cui insomma, passate a trovarci perché ne vale la pena. Bene, Andrea, grazie mille. Allora, ricordiamo anche il vostro, tu l'hai dato per scontato, credo, perché essendo interno lo ricordo io a chi ci ascolta, l'appuntamento di domenica prossima, Assemblea Cavallerista 14:45, si riunisce ogni domenica alle 18 e in assemblea pubblica per, diciamo, un po' mettere ordine su quello che è accaduto in settimana e ripartire verso quella dopo. Quindi Andrea, correggimi se sbaglio, ma non credo, vista, diciamo, la vocazione e l'occupazione, tutti e tutte invitati a domenica alle 18. Domenica alle 18 e ogni domenica, e poi da lì in poi qualunque appuntamento possa essere interessante per i gruppi di lavoro che si sono costituiti e che si costituiscono man mano. Qui siateci, attraversate, la venite a vivere un po' la cavallerizza anche voi. Va bene, Andrea, grazie mille. Grazie a te, buona giornata. Altrettanto.

retraverser, recontre les paquets. Les bateaux remplis de toutes ces denrées. Bientôt les cales seront pleines à craquer. Quand la côte phocéenne se sera éloignée, les boutiques du marché seront déjà fermées. Du vrai cagnard d'Afrique, il y en a à foison. De l'arc-en-ciel magique, du rouge du Japon. Allora 12 e 14 sulle libere frequenze di Blackout, siete sempre all'ascolto di Parole Rivelli, ci avviamo verso l'ultima parte di questa puntata, come abbiamo annunciato poco fa siamo in collegamento con Vallo del collettivo universitario autonomo di Bologna, che innanzitutto salutiamo e ringraziamo. Ciao Vallo. Ciao, ciao a tutti. Ecco, con te vorremmo un po' commentare quello che si sembra doversi muovere nei prossimi mesi a Bologna, ovvero la costruzione di un nuovo campus universitario che dovrebbe proprio sorgere nella zona universitaria di Bologna, quindi in tutta l'area di Via Zamboni, ma che dovrebbe essere fatto proprio su tutta una serie di edifici storici. Quindi ti lascio la parola per raccontarci un po' quello che sta succedendo, anche quali sono un po' gli aspetti così più problematici di tutta questa vicenda. Sostanzialmente diciamo che il polo Staveco è insomma, un po' dislocato dal centro della città, insomma un polo che negli anni 70 era di era una base militare che poi sostanzialmente negli ultimi mesi qui è stato regalato, concesso all'università tramite un accordo fatto con il comune di Bologna e le altre parti interessate, insomma. E sostanzialmente, insomma, che cos'è questo polo Staveco e che cosa rappresenta nei termini anche di una ricostruzione non soltanto della zona universitaria, ma anche proprio un vero e proprio una vera e propria ristrutturazione dell'università per insomma quello che si vuole andare a costruire, o almeno quelli che sono gli intenti da parte dell'Università di Bologna. Infatti comunque non soltanto l'università è uno dei diretti interessati insomma in questo progetto. Insomma, vediamo che le parti, i soggetti che si muovono, insomma, che hanno interessi a comunque ricavare appunto un proprio tornaconto intorno a quest'opera, insomma questa costruzione di un nuovo centro universitario al di fuori del centro cittadino, sono sostanzialmente tre, quindi il pubblico, in questo caso l'università, che appunto mira a una vera e propria costruzione di un polo di elite, insomma anche le parole del rettore che vanno a indicare la direzione che si vuole andare a intraprendere, ovvero quella di un polo che abbia anche aspirazioni comunque di attirare un comunque anche un coinvolgimento a livello internazionale di studiosi e di studenti che vengono comunque lì per comunque cercare di approdare a un livello di una formazione di alto livello. E anche per quanto riguarda i servizi, insomma, è già stato anche comunque predisposto il fatto che comunque saranno servizi di alto livello e quindi anche di lusso, insomma, prevedendo quindi tutta quella privatizzazione dell'università che già in questi anni comunque abbiamo visto. E sicuramente da questo punto di vista poi anche le prospettive che si sta dando l'istituzione universitaria sono quelle appunto di creare un polo che poi vada effettivamente a riprodurre quei modelli di americanizzazione e di anche sfruttamento di ciò che si produce all'interno dell'università tramite il metodo dell'incentivazione del metodo delle start-up, del co-working, eccetera, eccetera, che poi sappiamo benissimo a cosa portano, legate soprattutto ai nuovi sviluppi all'interno del mondo lavorativo, ovvero in prospettiva quello che sarà il Jobs Act di Renzi, che produce sempre più precarietà all'interno di una società già e soprattutto un soggetto giovanile che è già di per sé precario, e che l'università ovviamente per questi modelli che va a prendere va a delineare quindi una forma di gerarchizzazione tra le università, cioè tra i poli di serie A, quindi di elite, come possono essere la costruzione del nuovo campus Taveco e tutto il resto delle facoltà che comunque avranno anche per le caratteristiche che tengono, quindi un declassamento e soprattutto anche una dismissione del sapere che viene prodotto al suo interno. Quindi questa sicuramente è una parte che poi vede direttamente legata anche l'ingresso dei privati, quindi come dicevo prima, che da una parte hanno sicuramente l'interesse di andare a mettere mano sui servizi che l'università vuole promuovere all'interno del campus, e anche da un punto di vista di speculazione edilizia che si andranno a ripercuotere poi sulla costruzione e ristrutturazione di tutta quell'area che vedrà sorgere lì il nuovo centro universitario. Mentre per quanto riguarda il centro della città, il centro della zona universitaria, quindi via Zamboni, piazza Verdi e insomma tutta l'area circostante, vedranno appunto la svendita di parte del patrimonio pubblico per andare a ricavare 70 milioni che serviranno all'università per andare poi a mettere in campo e finanziare la costruzione di questo nuovo polo. Quindi insomma sono diversi piani che sono legati all'intorno di questa costruzione, perché no, se vogliamo metterla così, anche di una grande opera, pur nella sua specificità, nel suo piccolo, che riguarda appunto soprattutto la ristrutturazione dell'università in questo senso. E l'ultimo piano appunto che è importante nominare è appunto quello di un piano più metropolitano e di una rimodulazione in questo senso del tessuto urbano e di come viene intesa proprio la città da questo punto di vista. Difatti la zona universitaria sappiamo benissimo che è il cuore pulsante di questa città dal 1988, da quando è nata l'università a Bologna, insomma, che ha arricchito insomma anche a livello culturale in tutti nei vari passaggi che ha avuto, insomma, anche questa città e questo il suo centro cittadino, insomma. E sostanzialmente l'intento, che tra l'altro ha anche comunque espresso l'amministratrice comunque del comune per quanto riguarda l'urbanistica, è appunto quello di un tentativo che parte dagli anni 70 di cercare di mettere sulla zona universitaria un tappo al, o comunque di cercare di togliere quel peso degli studenti sulla cittadella universitaria, sul centro della città, quasi appunto come se fossero un problema. E qui si viene appunto a definire, determinare il terzo livello, quindi su cui questi tre soggetti vanno a ridefinire in sé proprio il modello di città, quindi cercando, mettendo in campo processi di gentrificazione che vadano ad espellere quello che è la composizione giovanile che attraversa queste zone, appunto perché se le varie soggettività che all'interno della zona universitaria si muovono, non riproducendo un modello di vita e delle vere e proprie concezioni a livello culturale che non rispecchiano poi quelle che sono anche le prospettive del comune nell'andare a costruire la città vetrina di Bologna, insomma la Bologna bella, andando poi ad attaccare le forme che si riproducono all'interno della zona universitaria con la retorica del degrado, dei graffiti, che è un posto degradato perché ci sono appunto modelli di vita che sono incompatibili con il resto della città e che il comune sicuramente vuole andare sempre di più a costruire, appunto. E questo qui è il tentativo, quindi andare a espellere quello che è il soggetto universitario dal centro della città, portando in periferia, mettiamo così, però sicuramente al di fuori dal centro. Sì, Val, sicuramente, insomma, ci hai dato una panoramica molto ampia e dettagliata, sicuramente ci ritroviamo anche in quello che dici, confrontando anche con la situazione che conosciamo noi, che è quella torinese, dove appunto abbiamo questo campus che da un paio d'anni è approdato, questo mi sembra davvero il termine più appropriato, all'interno del quartiere Vanchiglia, che sicuramente ricorda molte delle cose che dicevi anche rispetto, insomma, al modello di università a cui tende. Una cosa che volevo chiederti prima di chiudere: voi avete già avviato una campagna, insomma, qualche discorso rispetto a questo campus, come vi state muovendo? Sì, certo, ovviamente mi ricordo benissimo anche qual è la vostra situazione, infatti una delle tante iniziative che stiamo mettendo in campo, soprattutto ora in una forma più di anche sensibilizzazione e di, insomma, messa a problema appunto a livello anche di una discussione più teorica, insomma pubblica, per aprire il discorso in maniera più aperta possibile con gli studenti della zona universitaria, per far capire anche quello che poi si andrà a realizzare con questo progetto. Infatti li avevamo chiamato insieme ai compagni in ottava per un dibattito in Piazza Verdi il 27 maggio scorso. E sì, per il momento comunque appunto le azioni che i processi che ci stiamo dando sono appunto questi di un'informazione, insomma, assemblee, dibattiti che vadano poi effettivamente a costruire quei processi che impediscono poi la costruzione di questo polo Staveco e la svendita del patrimonio pubblico di via Zamboni. Sostanzialmente poi in termini di processualità, ovviamente i fattori determinanti che appunto si potrebbero dare per l'impedimento o comunque per sottrarre sempre di più le possibilità che ci siano di un'effettiva svendita di questa parte di città, di zona universitaria, sono sostanzialmente quelle di andare a mettere in campo dei processi che vanno a rivalorizzare dal punto di vista nostro, quindi dei movimenti, insomma, degli studenti dal basso, le facoltà, le zone in cui ci troviamo, per andare invece a mettere in discussione quella che è una valorizzazione dei territori e delle zone pubbliche che attraversiamo ogni giorno, capitalista invece, che è quella a cui loro tendono, per ovviamente andare a creare sempre più profitto da una parte, togliendo poi quelle che sono le reali necessità della composizione che su quei territori vive e li attraversa. Quindi questo in termini ovviamente di teorici è la direzione che si sta muovendo all'interno della zona universitaria, che sicuramente dal prossimo anno accademico vedrà anche una sua comunque maggiore presa di forma, sostanzialmente, anche perché questo progetto vedrà comunque dei 6 mesi per inizialmente per andare a definire in maniera migliore quello che sarà il progetto, quindi andando a definire chi saranno i compratori, chi saranno i privati che si metteranno in gioco per la realizzazione di quest'opera, eccetera eccetera. Quindi bene Vallo, grazie mille. Sicuramente voi, rimaniamo sintonizzate per questa questione, perché riguarda, come un po' riguarda anche questo territorio nei termini in cui il campus già è stato costruito, ma sicuramente possiamo darci indicazioni reciproche su un po' il tipo di università che si prefigura dentro a queste astronavi in cui si vogliono traghettare gli studenti in un mondo di, come, alienandoli completamente dal resto del territorio, dalla città, quindi sicuramente sarà interessante seguire gli sviluppi di questa lotta. Va bene, ci risentiamo prossimamente, ci vediamo sicuramente l'11 luglio a Torino. Assolutamente. Va bene. Grazie per questa diretta, risentirci presto. Ciao. Ciao, buona giornata. Ciao ciao. Non lo cantarem più, lo micro è rompu. Non lo cantarem più, l'uraga de Marcia. Non lo cantarem più, lo micro è rompu. Lo fora petassa, non disie la ciurmetta. Lo fora petassa, che tornare in danza. Lo fora petassa, non disie la ciurmetta. Lo fora petassa, che tornare in danza. Passe, ça marche plus, tout est à la ramasse. Je vois ma ville partir à la casse. Mille bandits lui font boire la tasse. Ici, comment on fait? Qu'on fasse vite pour réparer. Dans ce boulet qu'il faut s'organiser, se relever, se remettre sur pied. C'est la cata, c'est un mauvais merdier. Tant pour les gars, ils ne vont pas lâcher. Ne nous laissons plus jamais manipuler. Si on ne dit rien, ils vont nous casser. Ils ont déjà annexé la cité. Ils ont déjà imposé le français. E nel frattempo al 346-667-3263 era arrivato un sms che segnala che i carabinieri fermano a Chiomonte sulla statale in direzione di Gravera all'altezza di Cantina delle Arti, quindi per chi fosse nei paraggi Cissi. Rien vers la gauche, rien vers la droite. Oh putain, j'ai les mêmes moites. Non lo cantarem plus, l'uraga di Marcia. Non lo cantarem plus, lo micro è rompu. Non lo cantarem plus, l'uraga di Marcia. Non lo cantarem plus, lo micro è rompu. Ah, le micro on est mal. À leur radio je capte que dalle. Y'a que de la pub et du son à deux balles. Pour de bon ça me casse le moral. Elle est facile. Boulet de toi, collègue. Massilla, in adenso, in cadenza, pour mettre le wall. Volevamo mettere un pezzo dal PC della regia, ma a quanto pare i cavi ci sono avversi oggi, quindi andiamo avanti con la nostra magnifica playlist. Throw away the key. Someone you might add, but it- Allora 12:37, ultimissimi minuti a disposizione di Parole Ribelli prima di lasciare i microfoni al GR di Blackout. Come vi avevamo annunciato in apertura, andiamo ad aprire questa rubrica social verso l'11 luglio. Vi leggiamo alcuni dei tweet così più interessanti che abbiamo raccolto durante la settimana. Da un post su Facebook: a me la chimica di Palladio piaceva pure, ma non poteva avere un altro simbolo che PD, cioè ritrovarselo pure all'esame no, eh? Ci vediamo l'11 e ci vediamo all'esame. E invece un altro che riprendeva gli hashtag utilizzati dalla Repubblica delle Idee, questo evento di cui parlavamo anche in apertura durante la rassegna stampa, dice: se il potere logora, figurati un contratto precario da 400 euro al mese. Anche per questo vi diciamo che ci vediamo l'11. E un commento poi dopo la maxi misura vista a Torino e gli sgomberi di Roma, insomma la risposta della controparte a quella che è stata un anno che ha visto la lotta per la casa essere centrale e soprattutto acquisire sempre più consenso. Il nuovo corso renziano è uno sgombero al giorno? Anche per questo ci vediamo l'11. E invece un altro post sempre su Facebook, che invece parte da così situazioni più ordinarie, ironizza Renzi e Fassi: anche per la coda che sto facendo in posta ci vediamo l'11. E un altro post su Facebook che ci dà un po', diciamo, di dati di reali rispetto a quelli che vengono così resi neutri dai giornali, come quando invece sappiamo benissimo che queste percentuali di disoccupazione piuttosto che investimenti poi fanno la differenza nel nostro quotidiano. 2013 spesa italiani per farmaci, diagnostica specialistica, pronto soccorso più 25%, casa aumento ticket, e anche per questo ci vediamo l'11. E un ultimo sempre insomma su questo, di questo calibro: 2014 in Italia sono più 800.000 persone senza lavoro e reddito, ma 10 persone guadagnano come 500.000 operai, e quindi anche per questo ci vediamo l'11. E questo è più o meno quanto. Ovviamente vi invitiamo a seguire le rispettive pagine Facebook e Twitter per chi insomma smanetta un po' anche da quelle parti, e a, insomma, a segnalarci, a inviarci commenti. Cercheremo insomma di raccoglierli e leggerli nelle prossime puntate. Adesso vi lasciamo un ultimissimo pezzo musicale, poi vi salutiamo. We'll be right back. number that. Waiting for someone or something to show you the way in. Don't you look back, because the time is the time, the time, the time, the time, the time, the time is a master. The time can be a disaster. Yeah, yeah. Got no time to play. The time is the master. And time is the master. Yeah. Cause then you can't change the hands of time. And you could never turn back hands of time. Got no time to play. Got to be on the go, we gotta move it right away when I tell you say no, but I got no time to delay when I tell you say, the time is the master. Cutty, cutty, cutty, move it on the dot, and don't you look who I continue to crash. Serious time, this a terrible time, yeah. Cause some may say, cause this a serious time, yeah. Yeah, you know. Got to know what to do in this time, is not what you listen. Got no time to flee, got no time to delay when I tell you say, tick-a-tick-a-tick-a-tack. Move it on the night and say you could have never stopped. Got no time to play and say no time to delay. Move it right away and never tell you what my secret is. Time is the master. Time is the master. Time can be a disaster. Yeah, you know. So you gotta move it on the go and do the thing. E cogliamo l'occasione di un sms che ci è appena arrivato qui negli studi di Via Cecchi per fare anche i saluti e lasciare spazio al GR. Ci scrivono tutte le canzoni dei Pink Floyd in versione reggae, soprattutto per questo ci vediamo l'11, scherzo, vabbè dai, ne abbiamo messe solo due, comunque niente, vedremo di non replicare. A questo punto noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento. Comunque ci vediamo l'11, sì, cioè, non... sì, quello assolutamente sì. Vi diamo appuntamento come sempre a martedì prossimo dalle 10.45 alle 12.45, rimanete sintonizzati sui 105.250, tra pochissimo il GR, poi ancora per questa settimana niente cattivi pensieri, speriamo di riavere presto tra noi Toshi e Simone, quindi buon ascolto e un saluto a tutti e a tutte da Francesca. E da Eddie, mi unisco assolutamente a Francesca in questo augurio, mandiamo ancora una volta solidarietà e ci stringiamo in abbraccio con tutti i compagni e le compagne colpiti da provvedimenti, restrizioni, fogli di via, varie ed eventuali, speriamo di continuare a lottare insieme presto. Parole ribelli, torna martedì prossimo, vi lasciamo al GR.